prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Via, via, è ora di chiudere. La bottiglia non me la faccio pagare. Ma adesso andate a casa che devo chiudere. Amicegna. Ehi, che stai facendo? Stai pensando. La finestra aperta. Con la finestra aperta. Parliamoci chiaro. Che cosa ti ha detto? Metafore. Metafore? E chi ti ha detto mai di parlare così difficile? E che metafora ti ha fatto? Fatto. Mi ha detto. Mi ha detto che il mio sorriso si espande come una farfalla sul mio volto. E poi? Quando mi ha detto così io ho riso. Il tuo riso è come una rosa, una lancia che si sfila, un'acqua che prorompe. Il tuo riso è un'onda d'argento repentina. Questa prima volta parla di mare, di coraggio, di amore e di una ragazza bellissima, scoperta da Massimo Troisi nel Il Postino, un film che vincerà l'Oscar e del quale avete appena sentito un estratto. Il Postino è l'ultimo film di Troisi e il primo vero film di Maria Grazia, una ragazza che ha tutti i numeri per giocare a fare la diva, ma che invece per sempre resterà coi piedi a terra, come sentirete anche in questa intervista, che inizia proprio così. La mia vita è mia figlia, ma non è una cosa scontata. Io mi sveglio la mattina e sono felice perché lei esiste, perché lei è veramente il mio respiro. Io sono pazza di lei come lo è pazzo mio marito, ed è meraviglioso potersi alzare la mattina e dire ok, oggi so che posso costruire un qualcosa anche per il suo futuro. Nata a Messina nel 68, Maria Grazia Cucinotta è una ragazza di una bellezza incredibile. Muove i suoi primi passi come modella, ma sarà proprio il film Il Postino a segnare la sua ascesa internazionale. Di lì a poco comparirà nel film 007, Il mondo non basta. La Cucinotta incarna la bellezza mediterranea, ricorda le dive degli anni 50, viene spesso paragonata alla Loren e alla Lollobrigida, un fardello non da poco. Eppure la ragazza messinese, figlia proprio di un postino, riuscirà a non farsi prendere mai la mano. Forse è proprio la sua famiglia a farle da bussola. Resta il fatto che Maria Grazia non solo resta salda sulle sue idee, ma riuscirà anche a creare progetti a sostegno degli altri. Negli Stati Uniti, più che in Italia, la Cucinotta si affermerà come produttrice, una professione che porta avanti non senza grandi sforzi anche in Italia, ritrovandosi davanti a un mercato della distribuzione chiuso e in mano a pochi potenti, come dirà lei stessa. È difficile, logicamente, essere una che va controcorrente, comunque. Se tu pensi che comunque io non... sono una che ha saputo dire no a qualsiasi tipo di non di compromesso, ma a qualsiasi cosa che comunque non faceva parte della mia persona, e già questo ti porta a dover pagare, no? Perché tu dici no a un regista, ovviamente questo poi ti mettono sopra una specie di X e dici ok, esclusa. Comunque, ripeto, nella vita io il mio messaggio dico sempre quando si chiude una porta si apre sempre un portone, perché comunque le persone ti fanno credere tutti di essere unici e indispensabili. Te è l'unica cosa che hai bisogno di non tradire te stessa che è l'unica cosa che veramente ti appartiene, la tua persona, basta. Tu quanto influenza l'essere messinese anche le tue scelte? Guarda, no, perché comunque i miei mi hanno sempre lasciato libera di fare quello che ho voluto, però il fatto di non volerli deludere, questo è stato sempre un deterrente contro ogni tipo di cosa. Ho sempre pensato a non ferire attraverso il mio lavoro, le mie scelte, le persone le persone che mi vogliono bene. L'incontro, uno degli incontri che sicuramente ha cambiato anche dal punto di vista di chi ti seguiva, la percezione che aveva di te, è stato quello con Massimo Troisi. Il Postino è il film in cui proprio si sente che c'è un incontro decisivo. Ma guarda, è un momento che non è mai finito, perché io ancora continuo a ricevere gli influssi positivi di quel film. Sono contenta, io sono stata molto molto fortunata e spero veramente di riuscire a continuare a lavorare dando quel tipo di immagine, l'immagine della semplicità che però arriva e resta anche attraverso le scelte di altri film. Ho cercato, logicamente nessun film è stato mai all'altezza del Postino, perché comunque ci sono delle cose che sono speciali e restano speciali e fanno sì che quello sia una cosa unica, però ho sempre cercato di far sì che comunque le mie scelte non tradissero il mio inizio. Senti, un'altra cosa che volevo un po' che venisse fuori e che invece non mi sembra che venga fuori tantissimo è anche il tuo lavoro di produttrice, perché tu hai scelto anche di orientarti su questo percorso. Come sta andando? Che cosa scegli? Cos'è che ti muove poi nelle tue scelte? Guarda, il lavoro di produttrice è nato quando sono rientrata in Italia, perché comunque sono passata dalla grande industria a un lavoro logicamente che era molto più ristretto e limitato, e quindi volevo crescere e cercare di dare opportunità anche agli altri. Non mi ero resa conto di quanto fosse difficile poi alla fine essere indipendenti, perché poi io sono indipendente, quindi il fatto di fare dei film, però poi alla fine trovi sempre l'handicap della distribuzione, e lì paghi perché poi hai dei film bellissimi tipo Viola di Mare, che è un film che per me è stata una risposta a tutto quello che era la lotta contro l'omofobia, oppure tutti i film comunque sono stati dei film che hanno dato dei piccoli messaggi anche sociali, però poi alla fine ti ritrovi l'handicap di dover lottare contro i distributori, gli esercenti che comunque ti boicottano, non ti tengono in sala e fanno sì che il tuo lavoro, il tuo investimento personale di produttrice comunque non abbia un giusto ritorno anche a livello economico. È difficile perché poi gli interessi lì sono alti, tra di loro io resto sempre indipendente, cerco di far capire alla gente che se non tuteli quello che è il proprio lavoro e il lavoro dei film italiani, rischi di mandare a casa le piccole società di produzione come la mia, che comunque danno da lavorare, perché ogni volta che tu produci un film non è soltanto un film, dai da lavorare a 100, 150, 200 persone per mesi, e questo è importante perché comunque è un investimento sul territorio che ti ritorna. Però non si riesce a far capire che comunque gli esercenti oggi non tutelano quello che è il lavoro degli italiani, che comunque producono e creano un giro di denaro all'interno dell'Italia, perché quando tu togli un film italiano per dar spazio a un film americano hai creato un danno, perché quell'azienda non ha più, non guadagna e non riesce più a produrre. O forse sarebbe il caso di cominciare a fare una scelta non legata alla nazionalità ma alla qualità del prodotto, cioè provare ad avere coraggio. Non è soltanto la qualità, puoi fare qualsiasi tipo di film, però se non sei appoggiata da una grossa major vieni continuamente boicottata. Anche io all'inizio pensavo magari non ho fatto il film giusto, poi ho prodotto anche l'ultimo film di Natale che ha sempre incassato milioni e milioni, però da indipendente no, non sono riuscita sono arrivata al quasi neppure pari. Ci fermiamo qualche istante, torniamo tra poco. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. sembravo Alice in Wonderland, capito? Mi guardavo intorno e dicevo, ma questo esiste o non esiste? Ce l'ho fatta, sono qua veramente. Tant'è vero che all'inizio pensavano tutto, oddio, abbiamo sbagliato, perché questa è talmente, ero talmente andata nel pallone che non pensavo che tutto questo stesse accadendo realmente. Quindi i primi giorni sono stati traumatici, più per loro che per me, perché erano terrorizzati che non riuscissi a fare il ruolo che mi avevano dato. Poi devo dire, grazie all'aiuto di tutti, Massimo per primo, si sono messi con tanta pazienza a riportarmi con i piedi per terra e a tirare fuori la Beatrice, che poi doveva essere una Beatrice neppure troppo costruita, un po' così come ero io quando ho lasciato la Sicilia, un po' selvaggia, un po' aggressiva, ma allo stesso tempo amante della verità. Mi sembrava un po' di rivivere la mia vita da piccola, perché mio papà faceva il postino, quindi io lo vedevo arrivare proprio così. Giocavo con la sua borsa e il suo cappello, quindi sai, per me ritornare a fare una cosa era un po' ritornare a quando ero piccola, a giocare, però quello non era mio padre, ma era la persona che aveva fatto, era un po' rivivere la storia di mia mamma e di mio papà. Guarda, io sono appena ritornata da Los Angeles e c'erano delle persone che mi chiamavano, camminavo e mi facevano la farfalla, perché un po' mi ripetevano le frasi di Neruda. Il postino ha regalato a tutto il mondo le poesie di Neruda che pochi conoscevano, e ha regalato delle emozioni che talmente belle, talmente vere, che resteranno senza tempo immortali come lui. Racconta così della sua prima volta Maria Grazia Cucinotta. Aveva 24 anni quando esordì nella parte di Beatrice nel film di Troisi Il Postino. E così, tirando fuori la sua infanzia e un po' tirando fuori il suo carattere, che Maria Grazia Cucinotta si impone a livello internazionale. Quella della Cucinotta è una storia in cui lentamente entra, sempre più prepotente, l'impegno per gli altri, un impegno che piano piano diventa centrale e che trasforma ancora di più questa ragazza in un'antidiva a tutti gli effetti. Ma questa fa parte del mio carattere, del mio essere, non c'è una cosa in particolare. Lo faccio perché mi sento di farlo, e poi secondo me è l'unico motivo per cui valga la pena essere famosi, perché attraverso il tuo essere famosi dai visibilità a tante persone che hanno bisogno di visibilità per salvare delle vite, non per manie di ego o di altro. Perché tu in particolare poi stai lavorando soprattutto con diciamo quella fascia che è meno rappresentata, è meno ascoltata in qualche modo, che ha meno visibilità, soprattutto nel quotidiano, perché poi di autismo si parla, se ne parla tanto, ma poi però magari mancano gli insegnanti di sostegno, mancano dei progetti reali. Cure sono veramente, veramente costose, cioè poter fare questa terapia a un bambino ti costa dai 700 ai 1000 euro al mese. E non tutte le famiglie se lo possono permettere, e allora diventa una cosa cioè triste, perché tu guardi il tuo bambino, sai che magari potresti aiutare a migliorare, perché comunque dall'autismo magari non si guarisce, ma sicuramente riesce a migliorare il tuo figlio, e puoi addirittura recuperarlo in casi, perché mi spiegavano questi neuropsichiatri comunque, che comunque riescono, se tu prendi il bambino e diagnostichi subito la malattia, riesci a recuperarlo a volte anche al 100% facendo questo tipo di terapia. Ecco, che tipo di campagna state facendo in questo momento? Ma la campagna di Oltre il Labirinto è quella di sostenere comunque anche le famiglie, di creare delle strutture dove comunque il dopo possa permettere, perché dice, le famiglie si creano il problema e dicono ok, adesso ci siamo noi, noi amiamo i nostri figli e facciamo di tutto per loro, ma dopo cosa accadrà? Quando noi non ci saremo più. E quindi è quello di creare delle case che possano innanzitutto accogliere i ragazzi e garantirgli un futuro dignitoso, e poi comunque l'associazione si occupa anche di sostenere i genitori, di poter appunto fare le visite per diagnosticare subito il disturbo, e, insomma sono attivi. Io quando ho conosciuto Mario, che è il papà di un bambino che mi ha coinvolto, è stato lui poi che ha fondato insieme ad altri genitori l'associazione, la cosa che mi ha colpito è la loro forza, cioè l'amore innanzitutto verso questi figli, sono amati ancora di più, perché sono dei bambini completamente normali che non riescono, che scelgono una persona o due per poter comunicare e poi vivono nel loro mondo. E quindi vedi quell'amore e ne sei subito, sei coinvolta, cioè è un genitore che lotta per il proprio figlio e quindi non puoi dire no. Quanto ha inciso nella tua scelta anche l'essere mamma? Guarda, lo facevo anche prima. Secondo me è un qualcosa che non dipende dal tuo essere mamma. Lo fai perché comunque speri un domani che tutto questo che fanno privatamente questi genitori possa essere fatto da una società e da uno Stato responsabile verso chi poi alla fine non sceglie queste tragedie, non sceglie di essere malato e purtroppo viene abbandonato a se stesso. Senti, io volevo dirti questa cosa. Già parte di questa intervista mi ha confermato un'idea che ho sempre avuto di te, anche se non ti ho mai incrociata, no? Fisicamente o anche in altre interviste, però l'idea è sempre quella di una persona che in qualche modo, pur avendo le physique du rôle della diva, ha scelto di essere un'antidiva, cioè quindi molto presente, molto concreta e anche molto preparata. Questo quanto sta giocando a favore o contro la tua carriera? Quanto ha giocato a favore o contro la tua carriera? Beh, a favore nulla, anzi contro, perché io vado controcorrente, perché vivi in un mondo dove comunque se non fai un attimo di scandalo, di glamour, eccetera, eccetera, resti un po' fuori. Però io ho fatto una scelta ben precisa, voglio che le persone si ricordino di me, perché di Maria Grazia e non soltanto del personaggio, e non voglio far pagare a nessuno il mio successo, anzi, ripeto, lo voglio mettere a disposizione degli altri, perché comunque è un modo per ridare indietro quello che la gente ti dà, perché tu non diventi popolare perché sei speciale, lo fai perché le persone ti scelgono e secondo me è giusto dover ridare indietro qualcosa. Il tempo a nostra disposizione è terminato, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo che queste e tutte le altre puntate le potete trovare sul sito di Radio 24 cercando La Prima Volta. Nella nostra pagina troverete anche tutti i contatti per poi scriverci. Ci sentiamo domenica prossima alle 13:30. Ciao a tutti da Cristina Carpinelli. La prima volta.